Cambio, cambio, canale 10, cambio! Cambio, canale 10, oh! Canale 10, cambio, cambio! Oh, capa, capa! Samba, capa, capa, cambio, cambio, capa, capa! Tu ci hai riposato un po'. Ma stai votando tu? Ho capito. Ah, ho capito. No. No. Segnale 9. 9. Fai 9.10, 9.15. Sì, 9.10, tanto sei. Tanto, ma cosa tu non sei perfetto. A voglia. No, stai andando bene. Ah, mia radio. Microfono originale. Ah, ho capito. Aggiugavit. Oh, sto cazzo di smetto di darci di pigliare funziona Andy. Che c'è ragazzo qua? Però via, mosse di mega. Ah vabbè, ci sono già i soldi, quello nuovo, non è quello. Oh, boh, non ha mai il codice, è brutto bastardo. E ce l'ho davanti, Antu. Qua la pagina è qua. CB Radio, CTR, CRT Superstar, S79 Transfer. Nuova versione V6, SSB, FM, AM. Poi a seconda lo compri, il Superstar 2009 costa 229 euro più 5 euro di spese. Cava cava. E infatti, invece a vedere, vediamo un po' se mi fa andare avanti. Ma si poteva dare il codice, a quello me l'ha inviato. Che sto registrando le cose di mamma, per così quando... come si chiama? Dal telefono guardo lì, i soldi che ci sono dentro, no? No, da banco posta. Ci si è verificato un problema, aggiorna la finestra. Io ho questo qua, io ho PostePay per esempio, mi guardo tutto da lì, mi guardo. Aspetta un attimino che... No, qua c'è un codice IBA. Nemmeno qua ho un codice IBA, ma sì. Ci sono dei problemi, non mi fa poco cancellare niente, nulla. Mi dà questo castigo, ci fa problemi. Ma fa poco cancellare. No. Niente. Tutto male grazie di Giulia. Che occhiali? Che occhiali stai usando perché? Che occhiali stai usando? E a chi non li dà tu sempre? Non so se sono gli occhiali che stanno facendo vedere, mal di collo, niente, non mi arriva niente, vabbè, sono email mia, tanto sempre roba di casa, no. mi arriva il messaggio, però ma da qui non c'è niente, con Hotmail, no, sì, conferma 9 utente, inserisci il codice di conferma ricevuto via email all'indirizzo, se vuoi modificare l'indirizzo email torna indietro. Sì che ce l'ho. Adesso ho tutto il tempo gli altri che non entravi, un bel cavolo, no. No vabbè, a parte uscitavi qualche anno fa, poi da molto, non so come ricordo. Stavolta ho trovato tuo suocero, si stava forniciando le persiane, che ha sempre lucidissimi persiani, so. Siccome lui è, fa parte, siccome dobbiamo portare la Madonna quest'anno, gli ho detto ma quest'anno la Madonna esce, è certo, per quanto riguarda gli ho detto le vuoto il coronavirus, ma dovrebbe scendere, mi ha detto. Chi è che mi chiama avanti? Capo, scusate, Franco sono, non è che hai sentito dopo grigio che sto uscendo, volevo per segnare quella roba? Da solo un giorno volevo uscire dopo grigio. Non sta entrando, neanche io, tipo... Allora, come si chiamava di nuovo perché non mi viene? Nicola. Nicola, prova a chiedergli in zona, più o meno mi ha detto dove abita, prova a chiedere se qualcuno lo conosce, dai, se no pazienza. Grazie, riprendete, scusate. Via, di niente, figurati. Ah, tu niente da fare. Mi dice, aggiorna la pagina, però quel messaggio non lo apre. Invece ci sono dei problemi su, per quanto riguarda la PostePay, ma la... ma composta. Quindi adesso c'è l'aggiornamento dalla tosattrice, vediamo un po'. Vediamo un po' se me lo apre, se mi fa lo stesso problema. Non c'è connessione, ma come l'ha aperta la posta elettronica? No, ci sono problemi, no, no, non fa manco quello lì. Vediamo un po' se mi fa la stessa cosa. In caso faccio merenda, che ho fame. Oh, yeah. Andiamo di fuzia. Andato. Ma questo me lo ricordo. Ti ha detto quando dicevo duro duro, oi oi. Ma poi scusiamo, un microfono. Ah, bizzona. Come stava per non nemmeno tanto? Ma niente. Ma c'è una cosa del genere. Vedi, invece ci sono, se vi vedo un problema con l'applicazione, c'è una finestra del browser. Che se la pagina non serve più. Questo sono sempre Internet Explorer. Caso che abbia il computer, vediamo un po', ma c'è qualcosa che non va. Sempre. Finché va tu. Per me sta sempre andato. Non so però. 10 per il momento aspetta, ma non mi piace il blu, fa schifo. Vabbè. Come prima l'ho abituato a Windows XP. Poi basta 10, ho disperato. Poi 10 l'ho conosciuto bene. Corto abbastanza bene, 10, ma 7. No. Vabbè. Diciamo che non so usare 10, no, non lo so usare, però non mi piace proprio come sistema, capito? Raccordo? Io a casa stasera, a riposo, ma mi c'è aggiornare la finestra, niente, non mi apre niente, a parte manco quello, ma nemmeno l'acquisto che ho fatto. Non so. No, guardo, adesso provo con Mozilla. Sì che ce l'ho un altro computer. No, ma è difettoso, tanto c'ha problemi. Problema la scheda video, mi fa il verde, mi fa tutto blu, poi si riprende. La scheda è la video danneggiata, c'ha. Sì, chiappa, non hai capito. Eia. Cosa? Ma adesso l'ho detto da Mozilla. Ma ti serve? Acer? Ma questa è una cazzata, 20 euro costano. Io ne ho uno, me l'ho dato. Accendi, metto lo scopo, si accende da solo, però non ti dà vidiata. Quanto giochettino come faccio agli altri, se non te l'ho riparato, non so, infatti, isso. Infatti, riesci a vedere. Fate un computer umero, salva. Ok, vediamo un po'. Vediamo un po', siamo là per Mozilla. Sì, con Mozilla, sì. Me lo sta aprendo. Se avessi mi applichizzo. Sì, adesso me l'ha aperto il codice, eccolo qua. Un attimo. Azzardo! No, non mi accetta nessuno la password. Metto la maiuscola, le minuscole, i numeri, non me l'accetta. No, non l'ho controllata tu. No, mi apre più le mail, non c'è, vedete, vediamo. No, mi si è verificato il browser per continuare, aggiorno la finestra. Non me la apro più, vaffanculo. Vedo un garagino, ho tutto qua, per me. Tutto nell'Explorer. Infatti ho fatto la telefonia dal computer. Abili in culo. E vabbè, mi apro le Nokia, tu. No, faccio così. Così. Ecco qua, così un po' di passaggi che se ne frega, to. La futassa, apri i nocchi, andiamo alla grande, to. Chiudi qua, lo no, apri subito anche, vediamo un po', poi se la pagina non va più, da oggi perché va sempre aperta, sempre, infatti carica e apri, vedi, e vabbè non mi interessa, non è che la futassa, già. Ormai abituati sono anni che uso Explorer. Mi trovo benissimo qua, alla grande. Ah? Certo. Sono indeciso. Non lo so. Ce l'ho qua di nuovo. 30 watt comunque in AM da. No, allora 12 watt in AM, 30 watt in FM sicuramente. Mi supera il 6009. Ma è carino come radio, è bellina. Cioè è luminosa allora la notte. Ma il 6009 dici? È solo che il colorare è un monogatto non ne ho. C'ho solo il mobico, ma non c'è la macchioccella. Vedo un gazzino. Sarà arrivata la venicchia. Vediamo un po' un Atari ci sei. Cos'altro? Chi ti sento? Ma c'hai... Ma lì su microfono che sia biondo dritto. È biondo, vedi? Allora, è forte la radio, però è strana, capito? Parla, adesso va meglio. Non è microfoni di tavola. E poi dico, non è i microfoni di tavola. E vabbè, li devo per adattare. No? Cosa c'entra? Ma li devo per adattare, sempre perché io non ce l'ho. E non posso mettere anche in macchina un microfono normale, cosa metto? Allora, io ogni tanto sto guidando, solo giovedì però. Tanto, ciao, ciao anche a Luca. Datemi un controllo di radio, sto usando il DAC con l'MB più 5, come? Anche da te, Luca. Una bomba. Va bene, dai. Allora, metto com'era. Volevo agganciare il 747, ma non c'ho spazio, già via il culo. Lo lascio stare così. Sta dando 10 watt, già va bene. Va bene, no? No, poi c'ha... quasi 15 watt modulate, già va bene, ma se ne ho già tutti. È giusto per fare andare le mie B più 5, dai. E vabbè, Santiago non metti arrivanti, va bene. Vabbè, dai, ci sentiamo dopo, ciao a tutti. Ciao, Cla. No, non lo so. Via. Ok, azzardo. Tutto gonfio, sì. Bimbina, non l'hai bevuta a pranzo. Perché pure oggi se ti fai? Io non la travagliare, tanto io domani non devo tutta la travagliare, non mi posso doccia. Ma sto scherzando, io se non vedo. Stamattina, ma lui mi sono lavato. Mi sono lavato, ho fatto una bella doccia, ci ho cambiato. La cappa a piedi. Sono andato, ok, guai. Guai a tu. Ma che gli occhiali del tappo, perché non si vede così? Cioè, il baracchino alla fine non fa vedere bene, bastardo. Infatti, ora sono bizzarro. Ma stati sciaggiando cosa mi fai sopra? Cazzia. Poi questo range che mi hai mandato tu, cioè, $500. E cazzo, tanto, ma sono sicuro in 2 euro, però. Questo qua c'ha... cos'è questo? Full. Pulisce, vedete. Questo c'ha un albero di canali anche. Via. Cazzo, proprio sono indeciso. Cazzo, sto riscaldando quello. Sassiccione. Un imbaffio o senza? No, qui. Guardato. Sono azzardo. Vabbè. È stato computer? Cioè, ti mando un messaggio. Va bene. Io sto per regolarmi, mi hanno capito, capisci a me? Ma io ho preso 30 euro per pulire una fettola, cambio la pasta, 30 euro. Poi ti ho detto come se devo resettare e fare, io praticamente mi ero portato Mondezai, veramente, quanto. A qualcuno gli ho preso anche 70, ma Mondezai, cioè nicotina a non finire dentro, Poi c'è questo, allora, CB CRT Superstar SS 9009 V3 CB 10-12 metri, 250 euro. 9009! Comunque l'ho ascoltato, dai, messaggio. No, io faccio tutto qua, tanto, vedi, ci ho detto un giorno, chi se ne frega. Dipende chi è, se è un amico faccio un prezzo buono, se no 50, 70 anche, un prezzo di pulizia a vento, cosa vuoi fare, purtroppo, un arcosco io non te ne manco te ne resette, lui guarda l'importazione, non so cosa fa, non conosci anche, quello che lavorava con Franco, tuo compare, 70 euro vuole lui, ma io ho anche le licenze, io l'ho completo, lui dice, no, mi cassano le balle a me, no, lascia perdere, va. Scusa un attimo, tu una volta che resisti, come fai a salvare la licenza loro? Ah, quel numero lì metti dopo. Ah, a me è stato tutto automaticamente. Una volta installato il sistema operativo, poi si blocca, pum, c'è una pagina, si installa la licenza automaticamente. No, proprio non ci di la licenza, tu. Sì, c'ho anche Windows 10, però sai che altro non riesco. Cazzo, non ci sono mai riuscito a installare il sistema operativo col pennino. Cioè io adesso, per esempio, voglio fare questo qua Windows 10, no? Cioè io riesco, cioè inserisco il pennino e lo sovrascrivo a questo, quello sì, però no, l'avvio. Ah, vabbè, guarda, però non c'è, non lo so. Non so come viene nominata la chiavetta nel boot. Però dici che mettergli un nome alla pennina così vedi quale pennina è. Ah, ecco, per quello non ci sono mai riuscito, mai. Poi lo volevo mettere nel disco, però c'è cioè, un lettore CD, in un DVD, ma non vuole da 8 giga. Buoni 8 giga. No, un DVD da 4 giga, non ci tanto. No, non ce la fa, non ci tanto, guarda. Io faccio Windows 10, adesso te lo dico, aspetta. Channel 2, femmine. una per Windows 7 e una per Windows 10. Allora, proprietà. E qua mi dice 4 giga. 4 giga. Dimensione 4 giga. E ha ragione. Uno non ci sta i soldi DVD a sta... Sonio. No, non hai capito tu. Allora, questi che ho io, DVD e RV, 4 giga e 7. E qua, come non mi va, adesso metto, lo faccio, se no cosa, con media player. No, non hai capito, ce l'ho già Windows 10 a tu. Ce l'ho già. Allora, faccio così, guarda. Io faccio sempre così, ma non batterizzo anche. No, ce l'ho in cartella nel computer. Adesso io prendo e trasferisco i dati, tutti i dati che ci sono, proprio la cartella, no? C'è anche il setup, c'è da 32 bit e 64 bit. Ma tra l'altro c'è tutto, per esempio. E vabbè, fai vedere che trasferisco tutti assieme. Boh. Ah, le cartelle devo aprire proprio. E prendere solo, c'è stata prendere la cartella. Sonio. Ah, a me ha chiamato tu. Ehi, è accornato in questo periodo. No, no, no. Fa tutto stamattina, stasera non ce l'ho andato. Natali, questo è il DAC con l'MB più 5. Lo senti pompare? Ma io ce l'ho sotto commutatore, non è che devo stare cambia che ti cambia. Ho trovato un posticino, giusto per farlo andare, visto che avevo messo la batteria nuova all'MB più 5. E quando voglio commuto e vado con gli altri tre, non è che, capite? Non c'è problema. Quindi se la radio e se il microfono attaccato alla radio ti consuma la batteria. Vabbè, uno come te non sa che cos'è. Controlla che non rimanga in alimentazione. Che strano, cazzo. E allora c'è qualche problema lì sicuramente. Non so. Ah, io ti sacchi, ecco. La cola del ponte di Monterrasso. Lo so tu, vabbè. A volte capita. Così. Natalie. Natalie, ma la fai una foto della radio tua accesa? Ce l'ho già. Aspetta, il telefono dove l'ho messo. Ma non stai usando l'MB più 4, Natalie? No, sto usando il Polmar col microfonino suo omologato. Aspetta, va. Quello me legati stai già. Vabbè. Mi è tratta durata, io me la fotte le balle. Manda la foto a Luca, manda. Tanto ti volevo dire anche, c'ho un portatile, non so manco di chi è, piccolino. Dentro ha la SSD da 8 giga. Però il sistema operativo non ci sta. No, non c'è lo spazio. Non ho capito, vabbè. Non è che mi interessi più di tanto. Mi sa che il sistema operativo sia... Quanto è? 12 giga? No. No, vedi, cazzo, no, c'ha memoria, no, fa una fottuta. È nuovo, vedi, due piccolini bianco, guarda. Il mio è 10 pollici. 10.1. Ma questo qua è il mini, no, mini notebook. Dopo lo provo, lo sai che metto un hard disk, no, l'altro potrebbe essere Windows 7, quello che dà problemi. Sai che metto un hard disk qua, in questo mio, tanto già ne ho, e voglio provare a installare se fa, cioè se lo installa. Luca, guarda che te l'ho mandata, a posto, a quanto ti dicevo male qua. Non ho capito, cos'è tornato? Natale, cos'hai fatto? Sto usando il panettone. Ah, legato, sì, ho capito. Sì, ho capito, dove? Stamattina te lo sentivi più forte, stavo usando il panettone. Col microfono normale pure. L'altro è tutto via. Qua non ci deve essere nulla. Che l'MB più 4 nuovo, quello lì è dentro la scatola, capito? -93, tutto dentro la cattura suia, via. Già sta bene così per il momento. Abbiamo problemi, Natali. Non ho capito, Natali, sono un padre, non ti capisco. Cos'è che hai detto? Non sai cosa ho detto? Non occupa Natali, no, gira, cosa fa Natali? Perché questo apparecchio riceve male anche, mamma mia, va a si rucula la macone. Sì, ma perché? Non è il problema, stai disturbando? Sempre, con questo sempre disturbo, se non si chiama nessuno inizia a piazzarsi l'antenna. Non ti raggiungi tu cosa mani va? Se non ti telefona e gesti così. Sì, ma hai avuto la mentale oggi? Oh no. Ah, no, io te la fusti. Aspetta, faccio una bassa. Via. Mentre ti fuggite ve ne siete. Bubu. Azzardo, ci sei, azzardo. Vai, cuocuomane. Azzardo, ci sei, azzardo. Gabbè. Positivo, gabbè. Che è questo? Che palle questo Smith, mamma mia! Che bello! Positivo, cavallo di bello! Azzardo, ci sei, azzardo! Vabbè, Natali! Salù! Che bagaba! Bagaba, che bagaba! Guardate, attenzione, già ti sento. Oh, oh, sento. Sì. 9:10, sì. 9:15. Gabba. Cos'è, Lincoln? Oh, Lincoln, ci sta vado, vai. Va bene. Anche lei c'ha Lincoln. Ah, ho capito. Invece quello stesso, Anto, è ciambo di canali, no? Cazzo. Comunque non parte, Anto, ma se non sono il DVD non va. Non parte. Cava. Ah, ecco, forse per quello. No, ma sono. Adesso nine. Sì. Natalino. Già. Adesso ti sento bene. Quello lì di radio pompa di più. Comunque ti sento meglio così a tu. Luca, ma cos'è che stai cercando di fare? Mettere qualche sistema operativo? Io ho due pennine, una Windows 10 e l'altra Windows 7, che partono in automatico. Oh, siccome ci manca qualcosa in questo Windows 10, non lo so. Ha dato un amico, c'è il bot, Wi-Fi, per 64, per 86, Autorun, bot MGR, bot MGR.wi-Fi e setup. No, è già nel disco, Antu, è già nel disco. Infatti me lo dà rosso, te l'ho detto poco fa su WhatsApp, te l'ho anche scritto, l'ho detto, ma se non mi ricordo. Se lo inserisco, mi esce il rosso, come se è pieno, mi. Beh, aspetta, là, sono, sta mettendo, aspetta. Comunque c'è tutto dentro, non l'ho già aperto. Io mi ricordo che avevo messo Windows 10 col pennino, però sopra scritto a Windows 7. Ho fatto la prova, ce l'aveva messo comunque. No, c'era Windows 10 Antu. C'era, solo che invece di occuparmi 12 giga, 20 giga, qual è? Me ne occupava il doppio. Quando si diceva, comunque l'ha installato, vuol dire che è buono, funziona, capito? Non lo so. Allora, 4 giga, allora aspetta, vediamo, proprietà del sistema. Infatti c'è dentro. Comunque c'è dentro, c'è tutto dentro. Voi è masterizzato sicuramente, così dici. E tu guarda WhatsApp, vai. Ah, ho capito. Comunque il boot c'è, Luca! Siamo in infuzia, Luca già! Ello! Piace che ello, te lo do quello. Già mai pensato, sì! Ti ho pensato, Cacchio, boh! Ci ha dimenticato, Denisi! Attore! Attore, boh! lei? Un attimino, ci sta chiamando dottore. Già sai che mi devi buscare il computer, sì. Aspetta, lo busco subito, mio Antonio. Mica Ettore volevo portarti, ce l'hai? Sì, parlaci con Ettore, vai. Ah sì, a lui mi fa vedi. Ettore, bene fa quell'affare? Ha voglia, me lo sto usando. Perfetto, va bene, ti volevo solo dire quello, non avevo fatto dubbi, dai. Parla con Antonio per il computer, to. Sì, un attimino, Antu. Momento di nomo. Vabbè. Ascolta, ma è quell'affare là? No, quell'affare là l'ha già venduto, viene sabato a prenderselo. Se non vieni sabato te lo rogo. Andava così. Va benissimo. Andava allora. Va meglio così. Vabbè. Tu ce l'hai un computer? 747 no. Ce l'ho in volo, ce l'ho. Io ce l'ho 50 euro. Sì, vai, compramelo. No, sto scherzando, non lo vendo. Non lo vendi, non lo stavo vendendo 50 euro. No. No, non lo vendo, tanto perché mi può servire. Dai, mi lo volevo agganciare, ma non c'ho spazio a questo baracchino, capito? Cercalo che già lo trovi, Anto, cercalo. Buono. Mi hai dato una bella idea, vedi, invece di prendere quello là, che quello c'ha più fatti, ne tolgo la carcassa e lo metto senza niente, con la ventolina, uso quella ventolina là, niente le fa. No, ho fatto un bel lavoro, però mi hai dato un'idea, perché quello lì non ci sta dentro il DAC. Però togliendo la carcassa sì, ho visto già la posizione, capito? Anche attaccandolo, per dire, all'interno del pannello di dietro si può attaccare. Esatto. Va bene, grazie dell'info, dai. Riprendi, ciao Tom, che mi allontano dalla radio, ci sentiamo più tardi se coincide, dai. Sì, ok. Finalmente ho sempre il nome. Vabbè, Claudio. Ci sentiamo. Ehi, a te, sempre Claudio Sogno. Ehi, Anto, allora ce l'hai, sì o no? Ah, dipende da cosa c'hai, ecco cos'è. Io ne voglio uno buono perché mi serve per mia figlia. Quello HP. Quanto? Boh, non so, 150. Caspita. Lenovo, avrà aggiudato e cosa l'hanno bruciato. Non mi fido più a prenderli. Che l'HP... ma te lo stai dando tu perché? Noia. No, io non ce la faccio a darteli quelli. Non ce la faccio. Lenovo è... cioè, ed è buono, sei sicuro? Lenovo è buono, sì. È un ottimo computer. Poi dipende da cosa vuoi tutto. PC li trovi così. Se vuoi uno scalzo 100 euro, hai 100 euro di computer. Però se vuoi spendere qualcosina in più, devi spendere. Cioè, 150 euro alla fine, se c'è un graffio, completo di batteria tiene, detto, la batteria tiene. Capito. Metti tutto, metti d'accordo con Antonio. Io al momento non ne ho, sono volentieri. No, è perché gliel'ho regalato, comprato nuovo. Un anno e se l'è bruciato, direi. Era un Lenovo, era. Ecco cos'è. Se gli è bruciato. Andate a cambiare la scheda e detto che non serve il computer. Ma se te ne capita qualcheduno, HP, mi interessa. Se te ne capita qualcheduno a quel prezzo lì, capito. 300 non ce la faccio a darteli. Vabbè, dai, pazienza. Pazienza, sarà per un'altra cosa. Un altro giro, un'altra volta. Quando vado sempre le cose arrivo sempre in ritardo. No, io ripeto, io ho una capima difettosa, manco basso, no, nemmeno, ma posso, me lo metto a vedere su internet. Vado proprio. Nine, mi servo un televisore. Che televisore naggio, ce ne vuoi te ne dopo? Io naggio 2, 4, 2. 4, 5, 6, 7 televisori c'ho io. Vedi un po' tu, se ne hai 7 più di me, ne hai più di me tu? Tutti funzionanti? Certo, vabbè, c'è stato contatto che si mangia in due. Vabbè, io parlo, io qua adesso ne abbiamo 1, 2, ce ne sono 4, 5, 6, 7, 8, poi ce ne ho 2 da Marina, sono 10. Comunque lo display 8, cos'è? HA magari, no? Io non me ne posso tu, scusa più display. Non so che marca, dimmi che marca, magari riesco a trovare il pannello. No, è chiuso ancora al pubblico. Io ho 2 schede nuove, ma sono dire nuove. Questo televisore che mi hanno dato purtroppo. Cioè, il pannello danneggiato, 55 pollici, era bello, so che si vede fa male, cazzo. Allora, l'ho aperto, mi ho attaccato le schede, cioè due schede nuove di un Samsung 55 pollici. Ma a LED, le CD, quelli dei televisori a LED. Vabbè, i pannelli dei televisori a LED ce ne hai tu. Perché ne ho uno io, ne ho due, uno che sarà della mia ragazza, che c'ha poco il vetro, si vede, una volta che è acceso non si vede otta volte, poi se ci metti l'occhio si vede, una striscia, come l'hanno danneggiato, come l'avevo sistemato. Un tipo, ma non lo tiro più dietro tu. Allora, poi adesso siccome diceva, proprio la telecomando al suo, e ho messo quello, sempre della Samsung. Insomma, un pannello lì mi sa che è a 22 o 24 pollici, poi io uno qua a 22, lo stesso mi serve il pannello. Ma se c'è un 40 mi serve, però non di quelli vecchi, Io ne ho uno a 37, da leggero, se c'è il pannello rotto, proprio l'ho rotto apposta, E poi, poi l'HA è 40 pollici. Cazzo, una cazzata allucinante, pensa a 4 ore non è una cazzata. Sì, ci vuole il tempo suo, perché ci vuole il tempo suo. Per me è un gioco, io mi diverto. No, non sto dicendo a te, no, dico, proprio per quello che te l'ha dato, dico. È una cavolata, cazzo, ho una cinquantina di euro, devo sistemarmi. Fammi sapere, Antonio, dai, fammi sapere, se riusciamo a mettere a posto questa HA. Magari va bene il pannello, perché alla fine sono tutti uguali, quasi uguali, dai. E vabbè, fammi sapere quello che hai però. Vai, ci fa un salto qua un attimo. Mi fai sapere, mi mandi le foto, boh. Comunque ripeto, me ne sei uno a 37 se ce l'hai. Che uno lo devo regalare a mio cugino, gli avevo promesso. Però non è a LED, quella a plasma. Ma funziona? Fammelo, io l'avevo promesso a mio cugino, ci vuole lavorare all'autoparco, no? Te l'avevo già detto. E gli avevo promesso che lo davo a lui. E vabbè, magari. In settimana non fa perché sta lavorando, solo ci siamo fatti un salto assieme. Avanti Claudio, ci sei, che ci è rimasto? Tone, ci sei? Sì che ci sono, perché altro vuoi? No, metti d'accordo, scusa, metti d'accordo con Antonio, se vuoi ti passo il numero e ti metti d'accordo con lui. No, se cosa non ne ha, lui c'ha quello da 300 euro, non fa, l'altro no. No, non lo voglio l'altro. Anda bene, dai. E quando se me ne busca uno va bene. Perché ne ho uno, lo vuoi? Oh, ce l'avevo già, gli avevo comprato nuovo, gli avevo comprato e l'ha bruciato. Quindi non gliene compro più di quella marca. Mi cado, gliel'ho dato io un Lenovo fisso, non so se è ancora qua, è un visual. Allora te li siamo portati. Ma allora, i computer, c'è gente che me ne freghista, nel senso che l'avvento la vuole pulita, non dico ogni giorno, non dico ogni mese, però vuole pulita. Perché poi cosa succede? Che l'avvento è sporca, non dissipa bene l'aria, e questo me lo può confermare Antonio, e poi con il tempo si brucia, mi confermi che è così Antonio. Vabbè, perché tu lo stesso, io no, se devi qualche lampo di rame ce l'ho, la DDR 400 mi sa, la 300 se non mi ricordo. Ma fammi di tutto. Ci sono i cosi, gente che cerca, i gruppi su Facebook, ti metti e vendi lì. Ora sono pure io a disco, io volo da un tera lo stesso. Però mi faceva questo difetto, mi stavo operativo e poi iniziava ad andare a farsi benedire, no, non viaggiava bene. E mi avevo fatto dare, perché ci avevo buttato un tipo di lì, per salire a Usino. Infatti avevo preso una disk nuova, gli avevo messo la 500 giga e poi ci avevo sistemato. Ci avevo dato più volte, la verità, molte volte non volevo soldi, io me li dava sempre. 20 euro, 25, 30, e non li pulivo. Perché purtroppo io PC l'avevo sistemato bene, avevo pulito l'avvento, tutto il lavoro che c'era da fare. E poi questo PC si bloccava, infatti non mi ha più chiamato. E poi che ha qui pannaggio. c'è un bicicletto che va danneggiato, è qui fa mea. Ce l'ho io, ci ho messo roba dentro, funziona, facciamo c'è roba dentro, funziona, però se tu lo metti nel computer non va. Ma infatti, c'ho un po' di roba lì, ma roba tipo 600 giga di roba, è pieno di foto e di che ballacche. Vabbè, qua fammi sapere anche per quanto riguarda i pannelli, vediamo un po' cosa riesco a fare. Se riesco a sistemare questo Akai, non è manco mio, è una ragazza. 40. Mi sa che ti capitano magari qualche pezzo buono si recupera sempre, per buttarli e buttarli. Pure se c'è qualcosa a te o qualche scherzo, no. Ma poi mi hai detto che non te la fotti più nuda del televisore. Vabbè, nel caso tu devi buttare qualcosa, fammi vedere se qualcosa si può recuperare. Per buttarlo e buttarlo, fammi sapere, là. Va bene, ok, non c'è problema. Cazzo, è stata mettere i guadri. Beh, ha ragione alla fine, noi non ho ragione. Vabbè, nel caso fammi sapere, là. Chi è che è rimasto? Natalino, ci sei? Luca. Ehi, a Luca c'è Antonio, guarda che l'ecocentro se vuole aprire, tanto è un bel po' aprire l'ecocentro, capito? Ciao Marica, signora signori, paese Parinoghi, Bari, eh? Ha fatto lo sguardo, Marino. Ti sto dicendo, forse per Antonio interessa, l'ecocentro se vuole aprire, non è per adesso che apre l'ecocentro, capito? Dunque tu, se c'è qualcosa di piccolo, se ti lo pensate, ci vediamo d'accordo, la porto via io. Però me lo devi portare tu al centro storico. E poi lo raggio io per portare giù l'altro parco. Se c'è roba da portare via, eh. E ok, io mi dispiace, non ti posso aiutare, io l'unica cosa che ti posso aiutare, se portavi qualcosa dove sono io, al centro storico, la potevo recuperare per buttarlo all'interno della tua, del comune. Io sono al centro storico e non posso muovere al centro storico, capito? Però io la posso entrare dentro, perché lavoro dentro, sono i colleghi quelli dell'interno, tutto qua. E appunto chiamato anche l'ufficio, ho detto che non è per il momento che apre, non è per il momento. Ok, continuate, scusate, riprendi Luca, ciao. Ehi, ciao Mario, ha stimato il video, guarda, faccio vedere quanto arrivi a casa. E adesso forse tu, perché sei in un bunker, sono giù nel cerebrato, tu, capito? Tu ne sei al monte o sei in laboratorio adesso? E al cellulare, Luca, al cellulare. Ma è troppo cupo la radio, così è. Aspetta un attimino, adesso va bene? E siccome sono qua giù nel cerebrato, è in una stanza, è molto chiusa, e anche quello che magari è in bomba. Tu dove sei, al monte o sei in laboratorio? Tu? E non so dove sei, da zona di sopra, allora. Bene, Meda, capito, come non ascolto, stavo girando e io lavoro in mezzo a quella roba, con l'azienda, però io sono al centro storico, sono al centro storico, passa mio collega, recupera la roba, diciamo, ingombrante, qualche cosa l'avevo presa io, capito? Magari oggi mi fai un carico oggi, un carico come facevi domani, piano piano. Bene, Meda, riprendi, io non mi ascolto che sto facendo roba al computer. Guarda, hai tomato il video, va. Benissimo, grazie, sei un grande, Luca, ciao. Ciao, Mari. Chiama Gaba. Mi vedi, ti metto in diretta, me. Ma vedrai che... Mi vedi, ti metto in diretta, me. Non farlo, la mia voce fa schifo, Luca, già lo sai. No, però c'è la testa, c'è un finocchio che c'ho su WhatsApp. Ah, così? C'è il finocchio, mio occhio, un bel finocchio, e allora? Ok, qua non c'è problema, bussa, non c'è più, capito? Non ti vede i problemi, a me non mi costa nulla, se c'hai roba proprio, magari ci sentiamo e ci vediamo ancora per il domani. Ok, continuate quelle per noi, ciao. Ho visto Luca, ho visto, grazie, già va bene, lo girato. Esatto. Esatto, ok, grazie. Hai visto Maria, mia signori? Andare la radio, dai. Si sta svegliando, prima l'ha chiusa perché c'era freddo, adesso c'è caldo, si sta svegliando, dai. No, l'altro giorno sta facendo tutto pulito, l'ho smontato, ma roba, prima roba, torna più, guarda. Ma infatti intanto ti passo il pennello, ma non me ne frega niente. La torre purtroppo è così, non c'è nulla da fare. Ti metto un compressore piccolino vicino e è una frustata. E tu pensi che li metto anche a bagno, le mascherine, con lo sgrassatore per pulire bene. No, ma anche io no. Cammi, poi è parco, è pecco. Ma il mio pecco è là. No. Tanto io ho un'antenna, te l'ho detto, un'antenna, mi sa che va bene, aspetta, mando la foto. Aspetta, ma c'è il telefono lì? Cioè, ma questa è la tua, con un filo regolabile. Ah, ho capito. Sono cose belle quelle, sono cose belle, sì. Ah, vabbè, comunque ti mando la foto, aspetta, se ti serve te la prendo, non c'è problema. Tutta la fai dire anch'io, non fai, buh. Ah, non dicevo una cosa, la ticana non la ciappi, non la truffi, buh. Tipo la colonia l'ho stessa, la colonia l'ho trovata. Questa è la ciappa, sì. Azzardo, ti mando la foto, azzardo. Azzardo. Ciao Gianni. Ciao. Cosa ti credi, no? Aspetta, c'è propagazione, lasci. No, c'ho lo square, c'è una fucchinta. E 45, ok, aggancio l'altro. Luca, ti mando una foto di una cosa, un video di una cosa. Cosa già? Ti sto mandando un video di una cosa che è successa in Trentino, guarda. Via. Ha visto ti sembra una iata, ma non è una iata. Che ragazza. Sì. Cioè, ma questa qua la puoi anche adattare, altro. È tipo la frustarella, a me. Cioè, l'attacco come la PLC 800, la 1000, capito? Proprio, però piccolo. No, è piccolo l'attacco, tu. Ma non c'è la base, capito? La base non c'è. Vedi un po', se riesci a farla andare. Certo. Cosa hai già? Un orso, no? Non si trova molto bene. Aspetta. Sì. In Trentino, cazzo, se stavo arrampicando al terracco, quello è uscito fuori perché ha sentito un rumore e cazzo se ne è scappato. Manco male se ne è fuggito. Pericolosi sono. Io sì, cazzo, io si sono tremendi. Ma tu, hai capito? Questo qua ci ha trovato in Trentino l'osso che stava salendo sul terracco e non l'è tirato. Mi doveva fare, vieni, vieni, bello, vieni, tiro. E lo chiudevi da qualche parte. Chiunque fa capo. L'hai temuto? Sì, ma se non li fa male i cinghiali non ti fanno niente. Solo se li colpisci, non li colpisci bene, ti attaccano, se no non ti fanno niente. Vengono a chiederti da mangiare, basta, tutto lì. A carice di te. Ogni volta che vado a fare la spesa mi escono sempre 100 euro, 110, lui. Perché non te ne accorgi? Anche noi quando andavamo a Città Mercato, come vedevi una cosa la coppa, vedevi l'altra, arrivavo a casa di contento io. Una volta mi sono proprio meravigliato. 500 euro ci sono usciti in spesa, ho detto non ci torno più qua, perché ogni cosa che vedi la compri, capito? Ti attirano, quello mi serve, quello mi serve. E come ti ha comparato? Ho fatto una spesa allucinante, infatti ho detto, boh basta, no, non ci torno più qua. Compro le cose necessarie e basta, se no se vedo la roba poi che le vuole comprare. E anche io quando li prendo quelle cose di dentifricio, li prendo quattro di quello, tre dell'altro, non ne prendo mai uno. Ascolta, tu gli assorbenti di colori li usi, rosa o bianchi? Ma io quelli bianchi. Infatti io uso anche quelli con le ali, quando sono ben in fretta, al terrazzo mi butto e scendo così di fare le scale, no? Perché l'ascensore non lo sto prendendo in questo periodo per quanto riguarda questo coronavirus, a me c'è qualcuno impestato lì, no? Non ne prendo neanche, scendo a piedi dalla scala, invece quello con le ali butto dal terrazzo, la grande. Non è quello della faccia a terra. Vero, con un bel parco lo sembra. Bobo, e arrivi tutto, l'ha inteso, ha fatto cucù. Gianni. Avanti, fra. Vai sul 20 un attimo. Passa 12, scusate. Andando. Ah, fa cagardi, basta che state un'antenna, fottidini. Cosa di polo. Poi di un'antenna e buh. Ma non manco, sei più tranquillo, si fa un bel lavoro, lo fai una volta e lo fai per sempre. Poi la tua dura e la tu. Dai, che su conto. Lo so, hai ragione. Purtroppo hai ragione. Vabbè, cosa vuoi fare? Cosa devo dire io che c'è capistudia? Mi sa che le tue volte sono molto meglio delle mie. Perché le mie secondo me di piede la spacchi, ce ne sono un bel spaccate. O meglio recuperate, le ho sistemate, però ce ne sono tante rotte. Veia. Oh, a tu. Poi immagini, anzi no, ti stavo dicendo, oggi è il compleanno di mia figlia, quindi ho dovuto fare una gala lì. Domani è il compleanno di Marco, ho comprato tutta la roba per lui, ha voluto il tonno, mi ha girato mezzo la sciascia lì per trovarlo, però alla fine ce l'ho fatta. Là. Il tonno a pranzo vuole il tonno, voleva il tonno, come pietanza. Esatto, con la tranci. Sono tutti così, anche Marco è così, fissato col sushi. L'altro giorno me l'ha fatto comprare, mi ha fatto spendere 60 euro per due barchette di sushi. A tu, io preferisco un primo, un secondo al ristorante piuttosto che spendere i soldi e mangiare sushi. A me sì, c'è qualcosa che mi può piacere, ma le altre cose non mi attirano tanto. A me mi piace, per dire, i gamberi fritti, le anguille, cosa ti posso dire? Il pesce crudo un po' mi nausea, quando lo mangio mi viene voglia di vomitare. Aspettate un attimino, fate un po' di bianco, c'è qualche break, avanti, chi è che vuole entrare? Buonasera a tutti, io ti ascolto, 9.30 qua, Radio 5, avanti Gianni. Prova Lupo Grigio. Provo, sto provando la stessa che mi ha dato Franco, la grande cambio. 9.10, buono Lupo Grigio, buonasera, buono segnale, 9.30 no, ma 9.10 sì. Bene, io comunque sto flesso così provvisoriamente l'antenna qua nel fagiolo, sicuramente meglio di prima, sto modulando, giusto? A voglia, adesso sì che ti sentiamo come si deve. Va bene, allora io rimango un po' in quei ritmi d'ascolto. Tu non copia, tu. 9.30 da me. Sì, vabbè, siamo vicini, dai. Casino, questo baracchino. Perché Mari c'ha la messa, l'antenna l'ha messa male tu, poi lui c'ha l'antenna nel poggiolo, è normale, perché se Mari la mette sul tetto, tu hai un'antenna sul tetto, tranquillo che ricifri. Non c'è una posta stazionaria, mi hai detto, mi sembra strano, A me mi arriva bene qua, 9.10, Anto, lo dicevo io. No, qua se ti sento bene, non ti sento male, però magari qualche cosa in più già la puoi fare. Anto, fatti un'antenna di quelle tipo Game Master, un'antenna così te la metti sul tetto e non vi pensi più. Oh, vedi tu Anto, vedi tu, non so cosa dirti. Per quella una boomerang. Cosa già? Per quella e quella si prende una boomerang che spara di più. E oggi va arrivata la boomerang di Giuseppe, solo che l'ho sbagliato in diritto, di Alghero è la mia antenna. Mi stavano cercando lì. E tu scusa, qua dove siete? Noi siamo vicini sotto quella sua. Ma io sono a casa di mia madre, sono uscito anche fuori. Allora chiamiamo dopo, mi ha detto. Mi hanno richiamato e purtroppo c'è stato un errore. La sua antenna è ad Alghero, siamo qua ad Alghero e via l'oceano ad Alghero, capito? Ah, siamo andati ad Alghero a portata. Hanno sbagliato nel carico, allora. E poi te l'hanno consegnata. No, mi è arrivata la macchinetta, la taglia capelli, quella sì. Poi in consegna la GLS, invece l'antenna è SDA. E l'antenna non te l'hanno consegnata qua il Giuseppe? C'è ad Alghero già. Oh, io. Ma non l'hanno consegnata, spero. No, ci hanno chiamato, ma poi c'è scritto Sassari nel pacco, in piccolo è scritto. Perciò non è Alghero, non è via Goceano Alghero, no? Lo so. Se invece la macchina tu vuoi non parada, con tu duio. Ah, a gas, sì, è vero, io mi ricordo che avevo l'impianto a gas. Sapevo l'appunto c'era altro. Cazzo, 3 euro, fa un po' di chilometri. Ma la macchina tua scende ora per a Cagliari. Ho capito. E non soltanto la uniscevo per mettere in moto. Da Gavino si è andato. Pure io lo conosco da tanto. Mi ha fatto anche l'impianto nell'altra, Gavino. È in gamba, una persona veramente onesta. Tante volte mi puliva l'impianto e mi diceva quanto ti devo dare. Vai e portami i clienti, ciao. E anche io, ne ho mandato un me lo stesso. Ma lo sai che io non devo qua, fratello di Natalino, perché sono andato, perché lui aveva l'impianto a gas, io non mi fidavo, mi diceva tutti che c'era la bomba sotto a sedere, questo e quella. Sono andato da lui e mi ha detto, già, la gente che dice così vuol dire che non è impianto a gas, io lavoro a sorso. Prima ci spendevo 300 euro, adesso ne sto spendendo meno della metà, 130 euro e viaggio tutto il mese. E così ho fatto io, cazzo, ne spendevo 350 a viaggiare a Porto Torres 4 volte al giorno, ho messo le piante a gas e adesso sono rivissuto. Sì, ci credo, perché non so quello che io, cazzo, la mia è un 1.400 ma 120 cavalli, e a benzina consuma in cosa mala, però se la usi a gas, il gas ti dura. Anche camminando, mi camminando un bel, e poi a gas cammina, perché fino a 190 l'ho tirata, però qui non mi sono fidato più perché avevo paura. Ho detto, mi capita qualche cosa in mezzo alla strada, cazzo, mi ammazzo. E ho rallentato, perché se no c'era ancora accelerata la data. Però cammina un bel, la mia cammina più a gas che a benzina, lo sai. Ci credo. La mia è 1.400, ma è turbo, è 120 cavalli, è spinto come motore, cammina un bel, e poi la macchina è leggera, non è una station wagon, infatti lo sbaglio che ho fatto è non prendere la station wagon, e ti la data. E quanti anni c'ha? Vabbè, comunque, se va, va. Poi la mia era un treno, la station wagon era un treno mio. Consumava poco a gas, in più camminava un bel, era comoda come macchina, facevi viaggi lunghi, sembravi sempre in salotto, seduto, non te ne accorgevi nemmeno, andavi a cagare, manco te ne accorgevi. E la mia l'ho venduta con 350.000 km, l'ho venduta a uno, quello lì non ce l'ha fatta pagare l'assicurazione, se l'ha rivenduta e l'ha venduta un altro tipo, questo tipo l'ha venduta a una ragazza, sta sempre girando la mia, io l'ho data con 350.000 km, mai rifatto niente, e infatti stavo per ricomprare una Opel, poi mi ha... il meccanico mi ha detto di non comprarne, che stavano mettendo motori che non servivano, motori Isuzu eccetera eccetera, quindi ho cambiato idea, ho comprato un Fiat, ma un po' me ne sono pentito. Io mi sono trovato molto bene con la Opel, ne ho avuto due di Station Wagon e sono andate bene tutti e due. Non mi hanno dato mai gratta a capo. L'unica cosa che io le ho fatto a quella macchina è la valvola che ho pagato tant'ero, la valvola che c'è praticamente nella marmitta, come cavolo si chiama, se non mi viene il nome, e comunque l'ho pagato 80 euro solo per quello, poi non gli ho mai cambiato marmitta, non gli ho mai cambiato un cavolo, niente, nulla di nulla, li faccio per italiani. OGR, la valvola OGR, la valvola OGR, buonasera. Vabbè, ma se è tenuta bene magari la macchina va ancora, capito? Io ho venduto la 1 con la Fire, che cazzo non consumava nulla, l'ho voluta cambiare perché mi dovevo comprare la station wagon, se no non l'avrei cambiata, non consumava nulla quella macchina, con motore Fire era riuscitissima, guarda, come motore, ti dimenticavi di mettere benzina. Tante volte anche quello che fa uno fa l'altra, tante volte siamo noi pretenziosi e magari ti dura un bel, perché la panna che era mia moglie ce l'aveva 12 anni e l'abbiamo versata alla Peugeot, quando ha preso la Peugeot l'abbiamo versata lì e ce l'hanno pagata, la volevano rottamare e poi mi ha detto ma è buona la macchina, sì me lo fai passare perché me la compro io. C'era anche il portabagagli, ha detto non siamo per andare a prendere i pezzi, se è buona gliela compro io, ha detto buonissima, non c'è nulla, c'è la batteria nuova, c'è tutto nuovo, la marmitta gliel'ho cambiata da poco e me l'ha comprata lui, capito, quello del concessionario. Ti ha chiamato Eugenio. Avanti chi vuole entrare, mi sembra che qualcuno ha detto che c'era Eugenio, avanti Eugenio. C'era Eugenio che stava chiamando poco fa, ma non si era stato spazio. E dunque adesso lo sta chiamando adesso. Ciao Giulio. Ciao Gian, ciao. Continuate tanto. No, non sta parlando, non è entrato. Deve essere o si è offeso, si è incazzato, perché dice che chiamava e non l'abbiamo sentito. Io non l'ho sentito proprio per niente. E di solito lo faccio entrare sempre io, Gino, capito? Lo sento sempre io per primo. Ma stava parlando c'è l'Antonio. Per quello è. Non hai sentito perché poi insieme ad Antonio stava parlando. Vabbè. Tante volte non lo fai per male, Giulio. Sei preso da un discorso e poi magari ti diciamo fa un passaggio uno dopo l'altro e non riesci a capire, nemmeno tu ti rendi conto, capito? Lo so, vabbè, non fa niente, sì. Già si ripresenterà se vuole, vediamo se lo risente a me, forse è in macchina, non lo so. Attenti Eugenio. Io Mari. Avanti Eugenio. Io Maria. Gio Maria. Non c'è Gio Maria. E lei che si chiama Gio Maria. Attenzione Eugenio, ci ascolti? Forse non mi sente, là. Chi era quello che stava chiamando Gio Maria Gianni? Lui era. Ha chiamato Gio Maria, mi ha cambiato per Gio Maria, chi era? Non ho capito. Ho pensato che fosse Eugenio. Ma no, questo è un altro, Eugenio poco fa, ma questo è un altro. Avanti chi chiama Gio Maria? Va bene, lasciamo il bianco tra un passaggero e l'altro, se non se ne parla più. Se vuole entrare qualcuno entra. Avanti Luca. Eia. Dove fa? Ciao Giulio. Che cosa ci vuoi fare? Purtroppo. Si sbaglia, comunque era Giulio, sempre Gio Maria l'ho chiamato, sempre, si confondevano con lui. Perché assomiglia alla voce, però chi lo conosce non si confonde. Lo so. Avanti Giulio. Vabbè. Infatti è così, la voce per tanti è uguale. Le parole che sono diverse, ma non fa niente. Continua. Sì, il modo di parlare, di fare è diverso. Anto, e allora? Ti compri la macchina nuova a gas? Antoine, ho detto, hai deciso di prenderti la macchina nuova a gas? No, io ce l'ho già installato, l'impianto a gas. Fa tutto da sola, quando finisce la benzina va a gas direttamente, eccetera, eccetera. Però non ho ancora portato a cammino perché è in garanzia la mia. Cosa te ne fai? Perché dovevi trasferire? Ma ripeto, dura 10 anni, poi vuole cambiare, tu già lo sai, quanto ce l'hai la macchina? E vabbè, il bombolone che devo dire. Ah no? Ah sì, infatti ti dice di andare nella motorizzazione per omologarlo, prima lo faceva lui. Adesso ti fa andare la motorizzazione, però non mi ha fatto così. Ma c'è sempre quella legge che non si può parcheggiare nei garage sotterranei? Che regala? Cioè, dal primo sottopiano, solo il primo sottopiano lo puoi mettere, poi gli altri no. Ah, ho capito. E da solo, cosa fai? Col computer. Io, Antonio, e poi ti svegli tutto sudato. Ah, no, pensavo che fosse un extra. Eugenio, ci sei? No, deve essere andato a lavorare. Non lo so. Non lo potevo sentire, se parlava su di me, come faceva a sentire? Perché siete qua uomani. E non è che sono uomani, è per quello che non riesco a entrare. Avanti Natalino, buonasera. Buonasera. Io faccio sentire questo microfono, che non ha già ancora inteso me. Se peggio parte, avano si può più. Ah, ecco. Adesso col monocano. Il panettone sono, o il pandoro pure. Se col monocano o col monocano.